La tecnologia di cui disponiamo non ha reso fino ad ora possibile leggere una pagina dei Promessi Sposi, potendo ogni tanto gettar l'occhio sul volto di Alessandro Manzoni, il quale sia lì tutto preoccupato che quanto si legge non ci piaccia, che si tormenta inquieto nel dubbio, che bestemmia fra sé e sé per quella frase che ha finito con il lasciare nell'edizione definitiva, ma che avrebbe magari voluto tagliare. Come se nella pagina, in fondo, si aprisse un minimo schermo che ci si offre in alternativa alle parole, per cui si finisce con il gettare l'occhio un po' al romanzo e un po' all'autore. Forse le lettere d'amore del futuro, almeno per quegli affezionati retrogradi che ancora vorranno affidarsi alla parola scritta, le lettere d'amore del futuro forse saranno così. Dove non basta la parola, c'è la possibilità di sincerarsene nella dedizione del volto amato. La partita di calcio in televisione è ormai un rito consolidato. Man mano che questo spettacolo ha assunto valenze di sublime godimento popolare, pluralista al punto giusto, perché ne usufruiscono grandi e piccini, uomini e donne, sempre più donne agli stadi, a quanto sembra ricchi e poveri, chi cerca la pace, chi cerca la guerra, disincantati analisti e feroci tifosi, biechi conservatori, ingenui rivoluzionari e accomodanti paladini dello statu quo, sono tutti assieme, che gremiscono stadi. Da quando ha assunto questa valenza di godimento sublime, di ampia e garantita legittimazione sociale, dicevo, la partita di calcio televisiva ha sviluppato tutto un suo linguaggio. Voglio dire che quasi senza che il fruitore se ne accorga, il gioco fra le tante telecamere in alternativa, quella utilizzata per la visione frontale, mettiamo tipo tribuna centrale, quella per verificare i fuorigioco, quella che evidenzia i particolari del calciatore in azione, quella per i calci d'angolo, quella posta dietro le porte per i calci di punizione, eccetera, eccetera, il gioco ordito dall'abilità e dalla prontezza di un regista che scandisce sequenza dopo sequenza ha finito con il convalidare implicitamente delle regole a cui la nostra percezione di spettatori è gradualmente sottoposta. Gli esempi sono tanti, no? Vediamo dall'alto della nostra tribuna centrale un terzino che falcia un attaccante avversario? Ecco che la prossima sequenza sarà costituita dal primo piano dell'infortunato che rantola nell'erba, ed ecco che la prossima sequenza ancora ci mostra un primo piano dell'arbitro allo scopo di verificare immediatamente se a quel fallo viene fatta corrispondere un'ammonizione, un'espulsione oppure l'indifferenza di chi ha giudicato con il reo, diciamo con una certa indulgenza. C'è stato un bel tiro in porta? C'è stato un bel tiro in porta e una bella parata in risposta? Ecco che puntuale arriva il replay. Ecco che la medesima azione di poc'anzi la vediamo da tutt'altra angolazione, una o più volte, per più angolazioni. E tutto ciò ripetendosi nel tempo e instaurando abitudini percettive, viene a costituire il linguaggio proprio in cui l'evento si rappresenta nella narrazione. Credo che oggi potremmo parlare di una partita di calcio raccontata dalla RAI, esattamente come potremmo parlare di un racconto di Calvino, per esempio, per la caratterizzazione che differenzia la partita, per esempio, da come viene raccontata dalla televisione brasiliana, e il racconto, per esempio, da come viene scritto non più da Calvino, ma mettiamo da Landolfi o da Gadda. Orbene, assodato tutto ciò, può risultare più comprensibile l'attenzione a certi particolari evolutivi. Ogni linguaggio evolve secondo una sua logica nell'interazione comunicativa in cui assolve le proprie funzioni. Spesso, se non sempre, anche in dipendenza del parallelo evolversi della tecnologia che lo veicola, questo linguaggio. Notoriamente, da un po' di tempo a questa parte, è nato il riquadro in televisione. Questo riquadro che altro non è se non la possibilità per il narratore di usufruire di un piano narrativo parallelo, cioè di offrire al proprio lettore l'eventualità di un confronto fra elementi costitutivi del medesimo evento. Un arricchimento che come tale non va mai inteso restrittivamente alla sola funzione informativa. Recentemente, proprio giorni fa, 17 marzo 1993, mercoledì scorso, in occasione di una partita di particolare rilevanza per gli appassionati, credo, come quella tra Juventus e Benfica, il riquadro ha svolto un ruolo qualitativamente innovativo. Ben inteso, Juventus-Benfica è stata una partita di calcio come tutte le altre, 22 persone che si danno da fare come matti per raggiungere i propri obiettivi, più un arbitro e due guardaline che controllano che questi obiettivi vengano raggiunti nel rispetto di certe regole vincolanti per tutti e 22. Tuttavia, nel riquadrino in basso, a destra o a sinistra del teleschermo, alternato un pochettino nella posizione secondo i gusti del momento del regista, si può dire per 70 minuti su 90, non è mai apparso un particolare alternativo all'immagine centrale che con lo svolgimento del gioco avesse direttamente a che fare. Mai un tiro, mai un fallo, mai un gesto tecnico particolare. Il riquadro è stato, credo proprio per la prima volta, tutto dedicato alla faccia di uno dei due allenatori in campo, alle sue smorfie, alle sue imprecazioni, ai suoi richiami, ai suoi urli, alle sue emozioni, il che la dovrebbe anche dire lunga su come e su quanto una partita di calcio, al di là della peculiarità sportiva, sia diventato un evento essenzialmente ideologico, di una tale enfasi di questo contrappunto drammaturgico. Ovviamente c'era una ragione, certo, tal trapattoni, l'oggetto semiologico e oserei dire frenologico di tante attenzioni, Trapattoni era stato nei giorni precedenti la gara al centro di polemiche, illazioni, dibattiti, svisceramenti, conseguenti più o meno come di regola a sconfitta, posizione deficitaria di classifica e silenzi stampa. La sua figura cioè era stata posta dal grande feuilleton autoreferenziale, dalle gazzette alla televisione, per tornare alle gazzette, in una posizione cruciale rispetto alla partita. Si doveva vedere lo scontro in campo e il suo demiurgo. Mai era stata attribuita tanta responsabilità ad un allenatore che da informazione secondaria e laterale di un nucleo diventava correlativamente spettacolo egli stesso. Il che abbrevia ulteriormente, riducendolo praticamente a zero, il distacco che ancora separava l'evento dal suo commento. Il fatto nudo e crudo, che in quanto tale non soddisfa le esigenze del mercato ideologico, dalla chiacchiera eretta a teoria, di cui invece si pasce l'intero sistema delle comunicazioni.